si gira. Graziella. No, ma la Graziella deve dimenticare di averci. Io no. Te lo metto davanti così lo vedi bene, ma sì, lo dimentichi. Sì, però devi dimenticarti. Ma guarda, è facile che mi dimentichi, sono molto dimenticona. Ok. Da dove vogliamo cominciare? Direi dal primo ricordo. Dal primo ricordo? Il tuo primo ricordo. Io non so se i primi ricordi siano reali o ricostruiti. Però io il primo ricordo ce l'ho di quando sono nata. Addirittura? Sì. E che ti ricordi? Che non c'avevo i capelli e che era tanto freddo. Freddo. E bagnello, ecco perché odio il bagnello, io così me lo ricordo. Che vuol dire bagnello? Sai quando hai quel freddo di umidità? Perché nasci che sei bagnata e fuori fa freddo, ecco, una roba così. E pioveva, ma quello me l'hanno raccontato, io non me lo ricordo, ma presumo che fosse perché pioveva e c'era il temporale ed ero pure sfigata perché era di venerdì e il venerdì porta male per i bambini che nascono, ecco, questo è non quello che mi ricordo, ma forse quello che mi è stato raccontato e quindi lo ricordo. Questo è il primo ricordo. E il secondo? Faccio male a metterli in ordine, però ho tanti ricordi che sicuramente so che risalgono a 2 anni, entro i 2 anni, perché poi a 2 anni e mezzo si hanno cambiato paese e quindi anche casa. Perché prima dove stavi? Allora, quando sono nata stavo a Valdagno, in questa casa dove i miei abitavano, che era un appartamento dove non c'era neanche il cesso, perché era in comune con quelli di sopra, sulle scale, io quello me lo ricordo, che c'era la scala che andava su, poi a destra si andava all'altro appartamento e a sinistra c'era questo cesso, che era comune fra i 2 appartamenti, io mi ricordo questo. Poi mi ricordo, ho tanti ricordi dall'inizio ai 2 anni. Mi ricordo che poi quando ero ammalata chiamavano il dottore e mi diceva che era una bella bionda, e diceva ciao bella bionda. Allora tutti mi chiedevano cosa ti dice il dottore, io dicevo, mi dice ciao bella bionda. Ero molto orgogliosa di questa cosa. Poi mi ricordo quando ci fu la valle che straripò, cioè questa casa. Ma era in che zona siamo, scusami? Zona Valdagno, cioè quella lì era praticamente provincia di Vicenza. Provincia di Vicenza, okay. I primi monti, e c'era come ora, no? Cioè, quando viene, secondo me, poteva essere questa stagione. Cioè, io non camminavo, quindi sono nata a novembre, quando è che arriva giù le grosse piogge, quando c'è il disgelo. Quindi non so se è stato il primo anno o il secondo che abitavo sempre lì. E sul retro di questa casa dava su una valle, cioè su un ruscello, chiamiamolo così, che veniva giù. Ovviamente si riempiva quando era pieno. E quell'anno lì straripò e arrivò a casa nostra, che noi c'era piano terra, e arrivò anche nella camera da letto e mi vennero a prendere nella culla che navigava. Questo me l'hanno raccontato, io non me lo ricordo quello, ma mi ricordo che poi mi portarono a vedere sta valle, perché questa valle faceva tanto rumore. Io mi ricordo quest'acqua, dopo ti portarono a vedere sta valle, tipo il giorno dopo, cioè era ancora molto grossa la valle. E mi ricordo questo rumore, questo frastuono enorme, tutta quest'acqua che scendeva. E a me quella roba mi rimase tanto in testa, tanto che poi per tutta la mia infanzia, che dopo un paio d'anni sono andato a vivere a Requaro, che era più in su, quindi era molto più soggetto anche a queste valli, a questi ruscelli che si ingrossavano, che passavano magari sotto i ponticcioli facendo questo rumore d'acqua, e io ero sempre terrorizzata dal passare sul ponticello dove c'era il rumore dell'acqua sotto. E da lì poi mi si è anche sviluppata la paura del vuoto, quindi io l'ho sempre, cioè alla fine quella prima paura istintiva io la riferisco alla valle, quando straripò la valle, così dicevano che era straripata la valle, questo lo ricordo. Poi mi ricordo che, quello me lo ricordo benissimo, che odiavo le donne. Prima dei 2 anni? Sì, da bambina piccola. Sì, no, i ricordi prima dei 2 anni, perché abitavo a Valdagno. Questo mio odiare le donne era che, quindi metto assieme il ricordo, che più che ricordo sono sensazioni che ricordo bene, col racconto che poi mi ha fatto mia mamma, io, quando venivano le donne e mi prendevano in braccio, sai come si fa con i bambini, io urlavo come un ossesso, non ne volevo sapere, mentre con gli uomini ero tranquilla. Hanno provato anche col prete che aveva le gonne, identificavo che era un uomo. E non urlavo. Questo come mi diceva la mamma, il mio ricordo è che io ero terrorizzata dal rossetto sulle labbra delle donne. Quindi, siccome le donne usavano il rossetto, io quando vedevo il rossetto urlavo come una sessa. In particolare ce l'avevo con una che passava dalla strada di fronte alla casa, ma forse mi lasciavano nel cortilino da piccola a giocare, cosa avrò giocato, ero da sola, perché c'era una bambina che abitava sopra, ma aveva tipo 5-6 anni e io l'aspettavo quando tornavo da scuola, che così mi giocavo un po', se no stavo là da sola a guardare la gente che passava. Quando passava questa, che aveva il rossetto, una volta mi fece quello che io ritenni come un'offesa, cioè tipo sai i bambini quando si scanzonano, magari non era un'adulta, magari era solo una bambina grande, e io da quel momento lì lei odiavo tantissimo e odiavo tutte quelle che le somigliavano. Ho questo ricordo del mio odio-paura, che però poi concentravo sulle donne. Poi che altro? Di quell'età? Beh, quella della Befana, io ho creduto alla Befana, secondo me fino a 10 anni, perché io mi ricordavo che l'avevo vista sta cazzo di Befana. Quindi nel mio ricordo forse me la sono elaborata, perché poi quando ho capito che non c'era... Cioè, alla fine l'ho imparato col mio fratello, che la Befana non esisteva. Mio fratello ha 5 anni meno di me. L'abbiamo imparato insieme. Perché io, nonostante tutto quello che mi dicevano, ero piccata che io ci credevo. Non ci credevo quando mi dicevano le mie compagne di scuola che non esisteva. Senti, ma invece dicevi che poi a 2 anni vi siete trasferiti a vivere a Recuaro. Tu fratello non era ancora nato, perché... No, è nato dopo. E in realtà lì, secondo me, quando io ho avuto uno shock. Cioè, non mi sono mai più ripigliata. Io a Valdagno ero quella bambina. Cioè, che c'avevo... Cioè, che però esprimeva. Che se c'era quelle con rossetto non mi piacevano, urlavo. Poi veniva il dottore, ero tutto orgogliosa e raccontavo a tutti che mi aveva detto che era una bella bionda. Cioè, ero comunque una bambina aperta. Parlavo sempre di quell'età. Mi ricordo che leggevo. Guarda, me lo ricordo perché quello mi mettevano sul seggiolone, che c'aveva un piano, e volevo il giornale. E narrano che io leggessi. No, io lo mettevo giusto perché guardavo le figure e poi mi inventavo quello che c'era scritto e quindi fingevo di leggere, parlavo sempre, ero molto che parlavo sempre. Quando andai a vivere a Recuaro basta, smise di parlare. Però fu un brutto periodo anche per i miei, cioè nel senso che noi ci trasferimmo a Recuaro perché il mio babbo, non sto a raccontare quell'altra cosa perché quella semmai riguarda la biografia della mamma che se l'è pure scritta lei, ed è il mio babbo, cioè il mio babbo stette in sanatorio per anni perché perché aveva preso la TBC, gliela riconobbero come se l'avesse presa durante il servizio militare, in realtà l'aveva presa in Belgio in miniera, dove è andato a 17 anni, poi è rientrato per fare il militare un anno dopo, dopo 2 mesi che faceva il militare aveva la TBC. Al tempo era il primo periodo in cui avevano scoperto gli antibiotici, quindi a fine anni 40 la gente ci moriva ancora ai TBC. Lui stette in sanatorio per anni, la mia mamma stava già assieme alla mamma, la mamma non lo lasciò, comunque ecco, alla fine si sposarono, ma quando si sposarono lui era ancora positivo alla TBC e quindi la mamma è sempre stata col terrore, ogni colpo di tosse che io facevo. Ti venisse anche a te? Sì. Ma i suoi in che anno sono sposati? I miei sono sposati nel 1953. A Valdagno? No, sono andati a vivere a Valdagno dopo sposati, perché al tempo ci si sposava nel paese della sposa. Quindi il matrimonio, cioè le foto, nel paese della mamma, dal Baredo d'Adige. quindi nel basso veronese. Ma il tuo babbo era stato a fare il a lavorare in miniera in Belgio prima di sposarsi? Sì, da piccolo, cioè da giovane. Ma stavano già insieme? Sì, loro si erano conosciuti che avevano 16 anni, perché la famiglia del mio babbo era povera ed erano in tanti figli. Subito dopo la guerra loro avevano 4 campi in croce, perché erano quelle famiglie dove il mio bisnonno sapeva leggere e scrivere ed era diventato ricco, aveva tanti campi, però fece poi 12 figli. Quando spartirono i campi gli toccò un 12° della ricchezza del mio nonno, e questi fratelli fecero anche loro tanti figli, quindi il mio nonno era il primo che fece 9 figli. Ah, quindi era il bisnonno, aveva avuto 9 sì, anni, 12 anni, 12 figli. 12 sì. figli, il nonno 9. Nonno 9. Il tuo babbo era quale? Era il primo. Il primo, ah. Il primo. No, il secondo, secondo. Mm. Secondo. Quindi lui era, quando aveva 16 anni, aveva i fratellini piccoli, cioè mio zio ha 4 anni meno di me, il più piccolo, quindi è nato dopo che mio babbo era anche tornato dal Belgio. Quindi, il tuo babbo di che paese era? Di Trissino, cioè di un paesino in provincia di Trissino, in provincia, nel comune di Trissino, San Benedetto si chiama, che è dove c'è il cimitero, non so se te ti ci ho mai portato. Dove si chiamano tutti Bertozzo. Dove si chiamano tutti Bertozzo e Schenato. Schenato era il cognome della mia nonna. Sì, si chiamano tutti Bertozzo e Schenato, vabbè. A parte la mamma che si chiama Roncoletta, perché viene da un altro paese. Comunque subito dopo la guerra, con tutti questi figlioli a carico che continuavano a nascere, quei 10 campi non gli bastavano a mangiare. Quindi pensarono di andare nelle basse veronese, a, come si chiamava la parola, dal proprietario terriero lì, a Mezzadria, a Mezzadria. Andarono a fare i mezzadri. Certo che loro erano abituati a un ritmo di vita che non era quello dei mezzadri, cioè producevano poco, mangiavano poco, ma avevano i tempi loro, certo, erano padroni del loro piccolo campetto. Lì doveva andare, cioè a Mezzadria voleva dire che più della metà andava al padrone, quello che ti rimaneva, quindi dovevi lavorare il doppio per avere non tanto di più di quello che avevi. Resistettero credo un anno o due, perché non erano in grado di reggere quei ritmi della pianura padana, quindi anche tipo di coltivazioni intensive. Loro venivano da una zona collinare, quindi più faticosa da coltivare, ma anche più varia, perché dopo da piccola ci andavo sempre d'estate, sia dai nonni della pianura padana e sia dai nonni delle collinette. Erano due mondi diversi. Cioè, proprio da un punto di vista contadino, due mondi diversi. Cioè, è come l'Emilia Romagna, cioè queste distese della pianura padana, dove tu sotto il sole ci devi stare ore e ore e produrre tanto per vendere. Io, mia nonna era una gran lavoratrice da parte della mamma, andava lavoratrice, cioè su contadini, ma andava a pagamento, a raccattare patate, a fare queste cose, un lavoro duro. Ma quindi anche la sua mamma viene da una famiglia contadina? Sì, beh sì, certo. Cioè è diversa un po' la storia della mamma, perché i contadini erano i suoi nonni. Il mio nonno materno non fece 9 figlioli come quell'altro, ne fece solo 3, ma perché era sempre migrante. Lui stette prima della guerra, era stato un periodo in Germania e poi era andato in Africa. Lui non fece la guerra in Africa perché pochissimo prima scoppiasse la guerra gli venne l'ulcera e lo rimpatriarono. E le narrazioni della mamma, la mamma non leggeva queste cose, ma io le leggo con una che è venuta dopo e che magari ha letto qualcosina in più. Cioè, il mio nonno credo avesse dei figli in Africa, perché scriveva sempre che forse gli portava il neretto. E quindi la mamma aspettava il babbo che tornasse dall'Africa col neretto, come se fosse un gioco. E probabilmente perché, come tutti in quell'epoca, avrà fatto dei figli là, avrà avuto la moglie là. Ma i suoi dove si sono conosciuti? Si sono conosciuti mentre quelli erano a Mezzadria. Ah. Sono perché erano a Mezzadria, vicino al Barito d'Adige, dove... Esatto, sì, dal Barito d'Adige andarono a Mezzadria, quindi nella pianura padana. Ci stettero un anno o due, poi cambiarono politica familiare, quindi il mio babbo, che a quel punto aveva quasi 18 anni, invece loro rientrarono nel loro paese, lasciarono la Mezzadria e pensarono bene che l'alternativa era quella di mandare i figli a fare gli emigranti e mandarsi i soldi a casa. Fu così che mio babbo finì in Belgio. Però poco dopo, cioè, dovette rientrare per fare il servizio militare obbligatorio e si ammalò pure. E quindi, però, cioè, loro si erano conosciuti metti un anno o due prima. Il mio babbo, nelle narrazioni, ma vedevo anche delle foto, in realtà non è che lui poi desse tutti i soldi a casa, anche se non aveva neanche 18 anni, per lui l'obiettivo era sposarsi. Quindi metteva via i soldi e comprava delle pentole. Aveva comprato delle pentole, poi si era comprato una moto, cioè quindi in qualche maniera non era poi così prigioniero dei suoi genitori, anche perché il mio babbo rispetto all'epoca era studiato, nel senso che l'aveva mandato in seminario e aveva fatto, però evidentemente non era un genio a scuola, perché non gli fecero fare il classico, lo mandarono alla prima magistrale e fece un pezzetto della prima magistrale, poi non volle più fare il prete, forse perché gli piacevano le ragazze. Fatto sta che però aveva fatto la terza media. All'epoca aver fatto la terza media significava, poi mio babbo non è mai stato un analfabeta di ritorno. Di che anno era tuo babbo? Del 28, come era mamma. Quindi sì, cioè aver fatto le medie, lui le fece da questi preti che si chiamavano Giuseppini, che non so che categoria fosse, ma secondo me era un po' da come mi racconta il collegio, avevano una doppia attività, cioè da un lato si accattavano quelli da fare i preti, però facevano studiare anche i bambini poveri, cioè quelli più poveri del mio babbo, cioè mio babbo era un signorino rispetto a quelli che erano ancora più poveri di lui, nel senso che gli facevano fare le elementari e gli davano da mangiare, che altrimenti non avevano da mangiare. Lui mi ricordo che raccontava questa cosa, cioè che anche lui mangiava lì, eccetera, e quindi altrimenti a casa non avrebbe mangiato, però comunque lui ci andò dalla prima media, però c'erano anche dai Giuseppini questi bambini delle elementari che andavano a mensa lì, gratuita. Senti, ma e poi quando è che, dove si sono sposati e quando? Si sono sposati, a un certo punto il mio babbo, quando si ammalò durante il militare, fu ricoverato per tanti anni a Treviso, c'era un sanatorio, all'epoca c'erano i sanatori, e il mio nonno e la mia nonna materna, stranamente non s'opposero al fatto che la mamma fosse fidanzato con uno che, guarda, all'epoca poteva essere paragonabile a uno che aveva la TBC, con connotazioni diverse, ma un po' uno malato di AIDS che non poteva sopravvivere negli anni Ottanta. Però in qualche maniera la sostennero, tanto che il mio nonno accompagnava sempre la mamma a Treviso a trovarlo. Quando lo dimisero, dopo anni, quindi intorno al 52, metti che lui rientrò in Italia a 19 anni, andavano a fare militare, quindi nel 47, cioè subito finita la guerra, venne, uscì dal sanatorio dopo anni, nel 52, lo mandarono a casa, ma lui a quel punto in qualche modo se l'era cavata della TBC, ma era molto debole, aveva bisogno di mangiare carne, eccetera, e lui tornò a casa dei suoi, aveva sti fratellini piccoli, che non aveva da mangiare, e la mia nonna a lui comprava la bistecca e quell'altro mangiava mai carne, quindi guardava a lui, ti immagini, lui che aveva 22-23 anni si vedeva sti bambini che li guardava con occhi famelici, quindi non mangiava più neanche lui. Quindi, cioè, lì pensò che non si sarebbe mai più ripigliato a vivere in quel contesto e quindi decise di sposarsi, che lui era ancora positivo alla TBC. E trovarono casa a Valdagno, perché Valdagno era un po' più grandina e quindi lui sperava di poter magari trovare lavoro. Nel frattempo... Cioè si sposarono, le nozze si celebrarono al Barito d'Adige. Sì, però poi andarono a vivere lì. Si celebrarono al Barito d'Adige perché comunque le nozze venivano storicamente fatte nel paese della sposa. Però poi non è detto che vivessero lì. E in quel periodo che professione faceva il tuo babbo? Nulla. Nulla, cioè era pensionato, aveva una pensione, no, non ce l'aveva ancora, nulla faceva. La mia mamma aveva lavorato, quindi lui praticamente aveva da una parte i soldi che si era messo lì in Belgio e la mia mamma i soldi, perché poi vabbè la mamma è un'altra storia, i miei nonni sono sempre emigrati, andavano in Francia dopo la guerra, mio nonno e anche la mia nonna andarono in Francia. Mamma aveva due fratelli, uno 5 anni meno di lei e uno 12 anni meno di lei. I miei nonni e il fratello più grandino andarono in Francia a lavorare, e da quando lei ebbe tipo 16 anni, cioè subito dopo la guerra, quindi anche lei quell'età, la lasciavano da sola in Italia. Loro facevano i stagionali, magari stavano in Francia 8-9 mesi, lasciavano lei da sola col fratellino che aveva 12 anni meno di lei, che faceva, non faceva ancora elementari, quindi sta ragazzina. Però lei andò una volta, un anno a lavorare in campagna, ma non le ci piaceva. Alla fine si trovò un lavoro da un calzolaio che aveva aperto un negozietto e che faceva le scarpe. Quindi lei faceva quella che lei chiamava l'ingasina, cioè che era quelle che cucivano le tomaie delle scarpe. E lei l'ha fatto finché non si è sposata, questo lavoro. Quindi anche lei si era messa da una parte un po' di soldi. Quindi inizialmente loro contarono su questo, nella speranza che poi a lui riconoscessero la pensione di invalidità, perché comunque non era neanche in grado di lavorare. Invece di riconoscere la pensione di invalidità, perché ovviamente le lungaggini italiane sono sempre quelle che sono, gli arrivò da pagare tutti i soldi dell'ospedale, mica c'era il servizio sanitario. Ovviamente non avevano soldi e quindi andarono a sequestrare i mobili. E credo a Valdagno. Che, a Valdagno, credo che ero già nata, che ero, cioè, tipo che ero piccolina. Io credo che la madre abbia fatto una questione epocale, per cui alla fine non li sequestrarono sti cazzi di mobili. Di lì a poco gli arrivò la pensione. Dopodiché, a quel punto, inizialmente era considerato grande invalido, perché lo considerarono invalido per servizio, perché si era ammalato durante il servizio militare, che è equiparato a invalidi di guerra. E quindi tipo avrebbe avuto diritto al posto di lavoro, eccetera. E a quel punto cominciò a chiedere questo lavoro. Inizialmente non trovava niente. Uno dei primi lavori che fece, mi disse la mamma, trovò a Valdagno un lavoretto. La mia mamma manco lo disse, ma era un lavoro in un colorificio. Cioè lui con tutti i problemi che aveva. Certo. Però lui disse no, ma mi hanno detto che non c'è nessun problema. Allora a sua insaputa la mamma andò a parlare e lui non gli aveva detto nulla. Si era presentato lì cercando lavoro, l'avevano assunto senza dire la TBC del sanatorio, sì, nulla, nulla aveva detto nulla, e quindi nulla lo costrinse a licenziarsi. Dopo di lì a poco, cioè nel frattempo io avevo 2 anni, gli dettero il posto all'Arequaro, perché l'Arequaro all'epoca all'acqua, quelli dell'acqua e delle bibite, ma all'epoca era una società con a partecipazione statale, cioè lo è stata fino a che non l'ha comprata la San Pellegrino e poi la Nestlé. Quindi, e aveva tanti operai, all'epoca un migliaio di operai, ora ne ha tipo 80. Ma all'epoca, e lui poi ha lavorato lì nella sua vita? Lui sempre ha lavorato lì, quindi fu assunto all'Arequaro. Quindi ci si trasferì da Valdagno a Arequaro, che sono 10 km di distanza, però a volte 10 km di distanza si è immigrati, si viene dal sud e si portano via i posti di lavoro. Il primo giorno di lavoro mio babbo andò in pompa magna, aveva un unico impermeabile bello che avrà, figurati, gli sarà costato chissà quanto, glielo tagliarono tutto. No, addirittura. Sì, quindi il primo periodo credo che per loro sia stato molto brutto e di conseguenza anche per me. Io mi ricordo di questa casa dove la prima dove abbiamo abitato a Arequaro, che era tra l'altro in centro a Arequaro, ma era una casa fatiscente, e di sopra abitava una famiglia con dei bambini. Io non me lo ricordo il bagno di quella casa, non so se ci fosse o non ci fosse, forse c'era un cesso. Fatto sta che di sopra facevano il bagno ai bambini in un mastello d'acqua, e quest'acqua usciva e noi ci piangeva giù sul tavolo. Cioè, e quindi fra quello... Poi avevo trovato una bambina con cui giocavo, perché poi c'era anche questo problema, no? Cioè l'isolamento, non arrivi lì, mia non conosceva nessuno. E mi ricordo, questa bambina si chiamava Carmen, e dopo 2 mesi partì, andò in Australia, quindi persi anche la Carmen. perché eravate in un contesto di migranti, di... No, lei era di lì. Ah. Cioè, però, non so, forse questi, non so, con questa bambina io giocavo. Ma la sua mamma lavorava in quel periodo? No, non ha mai più lavorato mamma, è diventata casalinga, perché lei il suo obiettivo era quello di essere casalinga. All'epoca ci stava. Certo. Ma anche perché il mio babbo a quel punto, sopravvissuto a questo, ebbe poi anche riconoscimento della pensione, quindi ha sempre avuto tutta la vita una pensioncina, perché da grande invalido è diventato prima invalido di prima categoria, poi di seconda categoria, quindi per dirti, fu il motivo per cui mi incazzai tanto all'università, perché io dopo il primo anno che ebbi il presalario e per fare gli esami per averlo anche il secondo anno, mi ricordo pigliai 18 in istologia, lo accettai perché dovevo fare almeno due entro giugno, ma gli esami me li avevano spezzettati, quindi biologia, tipo io feci l'esame ma l'avevano diviso in tre, quindi non valeva come un esame completo, accettai sto cazzo di 18. E poi scoprì che il reddito del mio babbo aveva superato il minimo, cioè tutti i commercianti di Recuaro, magari iscritti a scienze politiche, eccetera, avevano il presalario e io no, perché il mio babbo, oltre allo stipendio, aveva sto cazzo di pensioncina. Mi ricordo che ci rimasi proprio malissimo. Mi fu abbastanza uno shock all'epoca. E quindi nulla, poi loro hanno sempre vissuto così, cioè alla fine non stavamo male. Però il primo periodo a Recuaro, cioè come sempre poi in questi casi, nel corso degli anni l'inserimento c'è stato. Ma perché quanto ci avete vissuto lì a Recuaro? Io ho vissuto a Recuaro fino a sempre, perché sono venuta via con 20 anni, fino a 23. Ma e non andavi all'asilo, hai fatto la scuola? All'asilo ci sono andata dopo, ma tanto non riuscivo ad andarci perché mi ammalavo sempre. Quindi sì, ho fatto tutte le scuole, cioè le scuole, la materna, hanno provato, non c'era, c'erano le suore, ma tanto no, io non ci volevo andare, perché poi ebbi tutto il periodo di tutti i miei giramenti, che ero timida, non volevo gli altri bambini, eccetera, però ho fatto le elementari, ho fatto le medie a Recuaro, poi ho fatto le superiori a Baldagno, perché non c'erano a Recuaro, quindi in Corriera, però ho sempre frequentato gente di Recuaro, finché non sono andata all'università, quindi poi sono cresciuta lì. E di fatto anche l'inserimento dei miei è avvenuta nel tempo, quando i figli hanno cominciato ad avere gli amici loro, prima io e poi mio fratello, per cui progressivamente questa cosa non c'è stata, però io credo che i primi anni, cioè i miei erano visti, poi qua sono molto chiusi, guarda che è stato il paese, cioè all'epoca era del PC, è stato il primo paese leghista del Veneto, ed è quello che cioè, erano tutti del PC e poi sono diventati tutti della Lega. Leghisti, e quello che 4-5 anni fa hanno fatto tutte quelle solfe, gli hanno occupato l'albergo perché aveva mandato degli immigrati in alberghi vuoti, gli hanno dato fuoco all'albergo, e quelli erano quella testa lì, cioè ce l'ho presente com'era questa gente. Il tuo babbo era del PC? Il mio babbo era della DC, la sceneggiata de quando io andai a volantinare ho avuto 15 anni. Mi ricordo, io ero in un gruppo cattolico, però era all'epoca, ti sto parlando del 69, sì, 69-70, era l'epoca dell'America Latina, di tutte queste cose. E era la teologia della liberazione. Sì, esatto, sì. Quindi noi avevamo questo gruppetto che in realtà io mi c'ero messa in questo gruppetto, mi ricordo, eravamo quasi tutti del classico, quindi gli altri erano tutti ricchi. Io ero povera, gli altri erano la figlia del dottore, la figlia del geometra, però vabbè, così funzionava all'epoca. E quindi noi facevamo, poi c'erano invece i figli più dei commercianti, quelli erano della PGC. Io ci sono andata due volte alle riunioni della PGC, ho pensato che già non sopportavo quell'altra chiesa e che andare in un'altra chiesa facevo anche senza, e quindi lì è finita la mia storia del PC. Però si facevano delle cose assieme, mi ricordo un mitico volantino su non so che cosa, che avevamo anche un nome noi gruppuscolo, non so come ci chiamassimo, gruppo di ricerca, vate la pesca, e PGC, e avevamo firmato con queste due cose, e io andai alla... Su cos'era sto volantino? Non mi ricordo, secondo me era su qualcosa delle fabbriche, dell'autunno caldo, qualcosa del genere. E quindi andai davanti alla messa delle 11 a volantinare alla gente che usciva, cioè noi in qualità anche di gruppo cattolico a maggior ragione volevamo andare a volantinare lì, ma erano firmate tutte e due. Salve, ti anche mio babbo, io tutta orgogliosa, lui lo piglia. Vado che usciva casa, dalla messa. Che usciva dalla messa. Vado a casa e mi ricordo ancora che mangiavamo lì la mamma, qua mio fratello, lì mio babbo e qua io. Cioè davanti te e tuo padre. Sì, eravamo di fronte, ma dal lato lungo. E a un certo punto dice, ma questo volantino, suo babbo poi gli raccontava. E io ho letto la firma. Io comunisti? E io contraddicevo, cioè no, ma papà, io non so cosa gli sia pigliato. Guarda, mio babbo non mi ha mai picchiata. Cioè, oppure mi picchiava con la cintura su ordine della mamma e si vedeva che anche gli costava, quando ero più piccola però. E a un certo punto aveva la forchetta e me la lanciò. Cioè, beh, non la poteva proprio buttare. Cioè, qua, guarda, invece così, perché cioè, deve essere stato peso. Cioè, io rimasi basita. Secondo me anche lui. Perché non se ne parlò mai più. Io continuai a fare le mie cose. Poi alla fine non votava neanche più DC. Votava PSI, perché lui poi è morto nel 78. E però progressivamente si era spostato, cioè progressivamente mi diceva che avevo ragione. Magari l'avevi anche un po'... L'avevo un po' convinto alla fine, ma mi ricordo quella sceneggiata di sta porchetta, che ma me la vedi arrivare qua, invece, ma non mi incazzai neanche, cioè ho pensato, ero basita. Ma lui... era operaio in una fabbrica dove la maggioranza votava PC. Immagino che gli operai molti fossero del PC. Sì, era chiaro, sì. E su questo c'era una conflittualità di cui allora, lui si metteva a parte. Lui essendo stato assunto come invalido, lui in realtà al lavoro alla catena di montaggio non l'ha mai fatto. Lui era stato messo nel magazzino pubblicità. Cioè, Arequaro aveva un grosso magazzino pubblicità perché era gli anni in cui faceva molta pubblicità anche in Rai, eccetera, in cui aveva una grande visibilità, quindi davano gli omaggi. Mi ricordo c'era l'anno in cui c'era il mangiadischi, l'altro anno in cui c'era i tappi che tu l'aprivi, e quindi c'era questo enorme magazzino pubblicità dove lui iniziò a lavorare. Obiettivamente lui aveva la terza media, quindi anche se era stato assunto come operaio era in grado di tenere i conti, quindi lui non divenne mai capo del patto, non lo passarono mai, sai quelli che dici tu fai questa cosa però non ti pago per questa cosa, è un po' quello di cui si lagna la Titti, perché tu comunque sei nato operaio e tu certo mi fai un lavoro come se tu fossi capo reparto, ma ti pagherò come operaio e ti do un contentino, difatti si chiamava intermedio, quindi aveva anche una posizione. Aveva alcuni che secondo me erano di leccaculo, che gli erano tanto amici, e altri che probabilmente lo odiavano. Ma lui non ha mai avuto amici a Arequaro, a parte che a Arequaro tutti bevevano e tutti si ubriacavano, e lui non beveva. E quindi non voleva bere, e lui diceva sempre che non voleva uscire perché altrimenti insistevano che lui bevesse e gli rompevano i coglioni. Io non so se è solo questo, secondo me è perché anche se io non l'ho più percepito, perché poi la mia vita è andata avanti, la mamma poi era una che attaccava il tono un po' con tutti, quindi anche la sua vita è andata avanti per suo conto, aveva le sue amiche, eccetera, il mio fratello pure, secondo me lui non si è mai inserito, cioè lui è sempre rimasto un po' in questo limbo dove aveva tre amici finti che in genere erano dei suoi sottoposti, e che quindi gli portavano i funghi piuttosto che quell'altro, eccetera, ma io avevo un po' questa impressione, ma lui non ha mai avuto amici. E quindi anche il suo essere pretone di famiglia, perché poi lui veniva da una famiglia di preti, per questo lui era della DC, anzi, lo zio prete col cappellano militare scriveva per invitare a votare MSI. Era un suo fratello? No, suo zio. Suo zio, fratello mio nonno, secondo fratello mio nonno. E teneva rapporti con tutti questi fratelli e sorelle, tuo padre? Sì, no, quella aveva otto, no? Lui aveva otto fratelli. Quindi non aveva amici, ma aveva molti legami familiari. Ma viveva a Trissino, quindi finché non ha avuto la macchina, e quando la macchina l'ha comprata nel 66, quindi io avevo già 12 anni quando gli ho comprato la macchina. Cioè, io mi ricordo che si andava due volte l'anno dai nonni materni, che nel frattempo erano rientrati dalla Francia, e precisamente ci si andava a Pasqua con un pullman che partiva da Recuaro, arrivava a San Bonifacio, cioè era una giornata di viaggio, e mi ricordo ancora quest'uovo di Pasqua che portavamo ai nonni, si stava 3 giorni e poi si tornava col pullman. E poi la seconda volta ci si andava il 15 agosto perché era la sagra del paese della mamma, e quindi c'erano le giostre, queste cose. Invece dai nonni paterni, che era più vicino, c'era però un problema, che non ci arrivava il pullman, ma ci arrivava all'epoca prima il trenino, poi un pezzo di corriere, poi il trenino, tutto per fare tipo 30 chilometri, e poi da lì non c'era altro, c'erano altri 10 chilometri che si faceva a piedi. E generalmente i miei nonni mandavano i figli giovani, i miei zii più piccoli, a prenderci, che ci aiutavano con le valigie. E io tutte le estate venivo, da quando ho avuto 6 anni a quando ne ho avuti 10-11, venivo mandata là un mese. Poi io stavo sempre bene, tornavo bella abbronzata, stavo sempre fuori, c'era proprio la vita di campagna. E riuscivo anche a socializzare con quelle poche cugine che avevo, cioè, e quindi sì, era un po' una vita, non lo so, stringendo. Io dovrei andare a pigliare la Titti. Pausa. Facciamo pausa? Beh, o dico di arrangiarsi? No, no, vai a prendere la Titti, che la lascia a piedi. Vai a prendere la Titti. Certo, glielo dico, che vedere se lì. Cioè,